P's and Q's in competition. Allora, sono le 11:20, dunque gli daremo aggiornamento su come sta andando il presidio a Piazzale Clodio, dove, lo ricordiamo, il Tribunale del Riesame dovrebbe pronunciarsi in merito agli arresti scaturiti dalla giornata del 15 di ottobre. Nel frattempo però noi ci occupiamo, come vi abbiamo anticipato poc'anzi, dell'assemblea che ci sarà domenica alle 18 al centro sociale ex SNIA. Si aprirà alle 17, ecco, mi corregge il compagno che è al telefono con noi e con cui ne parliamo e che salutiamo. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti e a tutti. Allora, chiaramente, insomma, si sente forte l'esigenza di discutere, di tornare a confrontarsi in uno spazio che sia chiaramente aperto alla discussione, dove si immagina, si spera ci sia uno scambio di opinioni, insomma, franco, soprattutto che possa avvenire senza fare alcun appello all'anatema, insomma, no? Tanto per capirci, e magari una discussione attraverso la quale trovare qualche spunto utile a uscire da una sorta di immobilismo che dovesse continuare e ripercuotersi, insomma, farebbe solo danni, visto che si sente l'urgenza comunque di cominciare a muoversi e ritessere quelle relazioni sociali che possono portare poi la gente in piazza, no? Sì, diciamo che questa esigenza, a quanto abbiamo constatato, è molto condivisa, tant'è vero che, diciamo, l'idea di costruire un momento di confronto pubblico ci è venuta all'interno del coordinamento cittadino di lotta per la casa, ma quando siamo andati a proporla abbiamo constatato che anche altre strutture avevano avuto la stessa idea, e questo ovviamente non può che farci piacere. E diciamo che quello che sta succedendo l'abbiamo visto, ce l'abbiamo davanti agli occhi. Mentre le politiche di tagli, le scelte, la scelta di far pagare a lavoratori, lavoratrici, precari o meno che siano, il prezzo della crisi, avanzano come un rullo compressore. Mentre a Roma c'è stata questa manifestazione enorme del 15 ottobre, che ognuno interpreta come gli pare, ma che comunque ha dato dei segnali, e in Italia purtroppo il cosiddetto movimento si ritrova a dibattere più che altro sulle pratiche di piazza o altri dettagli, nel mentre si scatena una caccia alle streghe bipartisan che fa francamente rabbrividire. Quindi il senso di questo incontro è intanto come obiettivo minimo, diciamo, quello di costruire una campagna contro la criminalizzazione, di solidarietà a chi ne sta pagando il prezzo. Io adesso vi parlo dal presidio a Piazzale Clodio, che chiaramente è un primo passo di questa campagna che è assolutamente necessaria. Dall'altro lato però, appunto, anche avendo letto decine e decine di comunicati che vogliono prendere parola, che comunque dopo la giornata del 15 sono stati spinti a interrogarsi su alcune cose, eccetera eccetera, pensiamo che ci sia bisogno di discuterle anche faccia a faccia, anche con punti di vista differenti, ma comunque, appunto, mantenendo il punto fermo del no alla criminalizzazione e della solidarietà con chi paga per tutti. E ovviamente alcuni elementi dal dibattito noi ce li mettiamo, cioè per esempio quello di, ma sono solo alcuni esempi perché appunto il dibattito è aperto, però per esempio interrogarsi su come questa quantomeno disponibilità al conflitto, che ormai non è più un caso episodico, si esprime in determinate grandi piazze, e come possa invece anche articolarsi in forme di conflitto auto-organizzato nella quotidianità delle contraddizioni sociali, per esempio. Ma ce ne stanno molti altri. Ovviamente questa discussione non vuole assolutamente trovare sintesi forzate o improbabili, diciamo, quadre complessive, e per ovvie ragioni quindi sarà soltanto un inizio. Crediamo che di questa cosa se ne senta il bisogno, forse arriva anche un po' in ritardo, ma forse questo ritardo ci consente anche appunto di andare al di là della cronaca, della moviola della giornata del 15, e discutere anche di altro, ripeto, a fronte di una situazione che non ci permette di perdere tempo in chiacchiere su appunto questioni, a mio avviso, secondarie. E certo, assolutamente, insomma, è chiaro, insomma, che la discussione sarà attraversata da una riflessione anche sul valore, sulla lettura da dare a quella giornata rovente vissuta qualche settimana fa. È però fuor di dubbio, insomma, che ad essa continuiamo a pensarci anche e soprattutto in riferimento alla situazione repressiva. Occorre chiaramente anche ragionare su quello che si è mosso, se quello che si è mosso ha qualcosa da dirci rispetto ai fermenti sociali possibili anche in futuro. Però va detto, insomma, appunto, che c'è questa cogenza forte di misurarsi su terreni e pratiche che diano un po' di sostanza, insomma, al conflitto. Occorre ripartire dalla costruzione di lotte di una certa importanza anche nella nostra città, perché poi, no, questo è un momento in cui la gente senza dubbio può mostrare sensibilità ai discorsi che da sempre fanno i compagni e le compagne. Bisogna necessariamente rimboccarsi le maniche e strutturare un po' qualcosa di concreto, anche dando uno sguardo all'estero, no? Non soltanto non solo in riferimento agli accampade. In Grecia, ad esempio, ecco, bisogna guardare anche lì, e non chiaramente in riferimento alle scempiaggini di Carlo Bonini per misurarsi su chissà quali palestre, insomma, ma magari cercando di capire, ad esempio, quello che dice il movimento Io Non Pago, no? Che può essere un riferimento che può darci delle soluzioni in questa fase. Sì, certo, tra l'altro abbiamo visto anche che in Grecia, per esempio, mi sembra che mesi, anni di conflitto sociale forte, di piazze piene, con pratiche assolutamente varie di piazza, qualche risultato lo sta ottenendo, tant'è vero che di oggi la notizia del referendum che mette in crisi tutta quanta la politica economica dell'Unione Europea, e che tra l'altro, diciamo, rende evidente la grossa contraddizione delle democrazie parlamentari degli stati europei, cioè quando poi si fa ricorso a uno strumento come referendum è meglio non farlo, perché questo, cioè le scelte economiche non devono essere assolutamente sottoposte alla discussione delle popolazioni. Eh beh, certo, quindi, insomma, speriamo che il confronto di domenica possa anche toccare i temi, insomma, di come rilanciare e magari collegare un po' di pratiche che negli ultimi periodi, insomma, sono stati un po' latenti, sotto traccia, insomma, all'interno dei quartieri popolari, no? Cioè, noi a Roma abbiamo delle vertenze che stanno cominciando a diventare forti e importanti sul piano, ad esempio, dell'ambiente. Sul piano del lavoro c'è qualcosa, ma, insomma, si ha bisogno di impostare un discorso vertenziale a partire dai territori, mi pare, no? Sì, assolutamente, io forse non condivido del tutto appunto la cosa che dicevi prima sul fatto che ci sia un immobilismo. Come ovvio, in situazioni come questa le contraddizioni esplodono anche spontaneamente, anche, diciamo, indipendentemente da quello che riescono a determinare o essere o non essere presenti i compagni. Ce ne stanno differenti anche soltanto in questi giorni, insomma. Mi viene in mente la questione dell'inceneritore Albano, mi viene in mente il fatto che domani gli studenti scenderanno in piazza per rompere il divieto di Alemanno, anche per rompere il divieto di Alemanno, ovviamente. Mi viene in mente sabato che ci sarà un corteo a San Paolo in risposta allo sgombero del deposito dell'ATAC, mi vengono in mente gli stessi lavoratori dell'ATAC che l'altro ieri hanno bloccato spontaneamente via Prenestina. È chiaro che non tutte queste queste contraddizioni si esprimono in forme diciamo così auto-organizzate o comunque se ci piacciono, però ci stanno. Il punto è che ruolo vogliamo te e come vogliamo giocare un ruolo in questo. Certo, va questa bene. È la mia opinione personale, insomma. Certo. Va bene, dunque, già che ci siamo, e dato che tu ti trovi comunque lì a Piazzale Clodio, sì, ecco, si è in movimento la situazione rispetto a qualche ora fa? Sappiamo che è iniziata da poco l'udienza, siamo circa un centinaio di persone, stiamo aspettando la fine dell'udienza, anche se, come saprete, l'esito non si saprà oggi stesso, ma le persone verranno ricondotte nei rispettivi luoghi di detenzione e la risposta, l'esito si saprà non so se domani, comunque nei prossimi giorni. D'accordo, allora facciamo così, rimaniamo d'accordo che ci risentiamo per fare il punto sulla situazione a Piazzale Clodio intorno alle 13, poco prima o poco dopo, così insomma aggiorniamo a quell'ora anche su come sta andando il presidio, e chiaramente insomma l'appuntamento di cui parlavamo invece è quello previsto domenica alle ore 17 al centro sociale ex SNIA Viscosa, assemblea. Ci sono un po' di pernacchie, assemblea pubblica appunto per discutere del 15, ma anche di tutto ciò che deve muoversi a partire insomma da subito per rispondere alla situazione economico-sociale che stiamo vivendo. Ciao, sì, grazie, un saluto. Aggiungo sì, che a breve su questa questione dell'assemblea di domenica girerà un comunicato che ci stiamo mettendo un po', perché appunto le firme sono molteplici, però ovviamente a prescindere dalle firme l'assemblea è pubblica, speriamo che sia partecipata. Perfetto, a più tardi, okay. Ciao. Ciao, grazie, ciao.